otto mande di stelle, Roma bella mi appari, sole altari il mio cuore, disilluso d'amore, con nell'ombro cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Sola sola mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, me ne mano solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sottile, la mia bella polverina, al balcone non c'è più. Purple shadows are creeping, and the fountain is weeping. Hear the trees gently sigh, while the winds murmur by as they ride from afar. All my memories awaken, they teach bright watching star. Play for one who's forsaken, all my Roman guitar. Sona, sona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, me ne mano solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordine, la mia bella fornerine, al balcone non c'è più. Play for one.